interessanti e anche un po' rischiosi in termini di efficacia. Trovi che mai come in questi tempi ci siano dei territori di contiguità tra la comunicazione sociale e quella commerciale? Assolutamente sì, dicevo, oramai su un sacco di tematiche, per esempio vogliamo solo pensare alla comunicazione delle automobili, che oggi come oggi l'80% è sull'automobile che risparmia carburante oppure risparmio energetico, sono frutto di anni e anni di campagne di carattere ambientale che hanno fatto del problema della scarsità, che è uno dei problemi di quali stiamo andando incontro tutti quanti, perché c'è meno lavoro, c'è meno energia, c'è meno acqua, c'è meno ossigeno, ci sarà meno di tutto. E allora l'azienda commerciale che ti propone l'auto che risparmia, l'auto che non inquina, vedete che stanno facendo propri e stanno fondendo bene o male la comunicazione sociale con quella commerciale. Citizen 4. So, I don't know anything about you. Okay. I work for Sorry, I don't know your name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Cambiamo argomento, usiamo il trailer di Citizen 4, il documentario su Edward Snowden, la storica talpa del Datagate appena uscito negli Stati Uniti, per introdurre il tema successivo. Parliamo dei cosiddetti big data. Lo facciamo però non per discutere del loro lato oscuro, con tutti i problemi di privacy e intrusione nelle nostre vite annessi e connessi, ma da tutt'altra prospettiva. Sapete che ogni due giorni il mondo produce la stessa quantità di dati prodotti dall'umanità dall'avvento della scrittura al 2003? Trasformare la complessità di questa mole di dati digitali, i big data appunto, in un racconto, in una rappresentazione aperta a tutti è la grande sfida del mondo digitale, una sfida che guarda all'informazione, all'educazione, ai servizi per i cittadini, individuando le connessioni nascoste tra fenomeni tra loro apparentemente distanti. Ecco perché ci piace il Piemonte Visual Contest, un concorso lanciato dalla Regione Piemonte che vuole coinvolgere in un percorso di intelligenza collettiva le amministrazioni, le comunità e le reti di sviluppatori e attivisti digitali, valorizzando gli open data, i dati accessibili a tutti in chiave di trasparenza e partecipazione diretta dei cittadini. Prima fase del concorso, costruire una mappa partecipata del territorio, come spiega Giuliana Bonello, responsabile della direzione dati e servizi del CSI, il consorzio per il sistema informativo della regione, al microfono di Miriam Korjat. I partecipanti dovranno realizzare delle mappe basate su OpenStreetMap, che è un formato standard aperto sul tema delle mappe, e queste mappe devono interessare il territorio piemontese e dovranno produrre anche progetti di utilizzo, quali ad esempio potrebbero essere un servizio web, un'app oppure un prototipo, per la produzione di oggetti a tema geografico, quindi tutti basati sulla localizzazione delle informazioni sul territorio. Subito dopo la premiazione del Mappathon, che avverrà a marzo del prossimo anno, partirà invece una seconda fase, che è lo Storyton, che invece, a differenza del Mappathon, vedrà coinvolte anche le pubbliche amministrazioni. Questo Piemonte Visual Contest, che è già alla seconda edizione, come nasce? Cioè, cosa sta dietro questo progetto? Dietro al progetto, diciamo, c'è l'intenzione del Consiglio regionale di promuovere questi rapporti con i cittadini, e quindi di promuovere verso i cittadini tutte le informazioni della pubblica amministrazione, ma anche le conoscenze della pubblica amministrazione. In particolare ci siamo resi conto che non soltanto la pubblica amministrazione possedeva miniere di dati, ma possedeva anche grandissime conoscenze che stanno all'interno degli esperti che la pubblica amministrazione ha. E quindi queste conoscenze spesso rimangono conoscenze all'interno della pubblica amministrazione, invece potevano essere portate fuori dalla pubblica amministrazione e fatte entrare in contatto con un mondo completamente diverso da quello pubblico, che è il mondo della creatività dei giovani e degli studenti, che in qualche modo possono portare competenze diverse da quelle che ci sono dentro la pubblica amministrazione. Quindi l'obiettivo, specialmente della fase di storytelling, è proprio quello di far incontrare questa conoscenza del mondo pubblico con la creatività dei giovani. La filosofia open, diciamo, parte dai dati che sono proprio il motore di tutto, quindi da una parte c'è l'open come dati pubblici che vengono rilasciati al di fuori della pubblica amministrazione. L'open però è anche negli strumenti utilizzati, perché OpenStreetMap è uno strumento open anch'esso, e poi l'open c'è anche appunto in questa apertura delle conoscenze, del knowledge che sta dentro la pubblica amministrazione verso l'esterno. Dall'uovo da passeggio al ristorante del benessere, la vita come gusto, il gusto come stile di vita, questo il claim di Golosaria, la kermesse dedicata all'alta qualità del cibo attraverso il piccolo artigianato alimentare che si chiude domani a Milano, una città che si prepara sempre di più ad ospitare Expo 2015, il grande evento che avrà come protagonista il cibo e l'alimentazione. L'ideatore di Golosaria, Paolo Massobrio. Ma il mondo di Golosaria è un mondo dove debuttano tante novità in campo alimentare, ci sono 100 produttori di vino, molti sono giovani, fanno un vino sostenibile, biologico, biodinamico, ci sono 200 produttori del food e anche qui 30 arrivano addirittura dalla Calabria, hanno portato tantissime novità da quella regione, come la confettura di Anona, i salumi e tanti altri prodotti. E poi la novità di quest'anno è la presenza di 15 microbirrifici, di 15 realtà della cucina da strada e del salone del cioccolato dedicato appunto ai maestri cioccolatieri italiani. L'uovo da passeggio cos'è, Paolo? Beh, l'uovo da passeggio è un'invenzione di Paolo Parisi, che è l'uomo che ha inventato l'uovo perfetto, per cui è un uovo sodo fatto in una maniera particolare, ma bisogna venire qui per vederlo perché è indescrivibile, e si assaggia passeggiando, così come gli sciat della Valtellina nella Cornucopia, o gli agnoltini del Plin delle Langhe, o il kebab di razza bovina piemontese che sta debuttando a Golosaria in questo momento. E poi il Papillarium, un ristorante del benessere, di cosa si tratta? Beh, questo è un progetto di un imprenditore insieme a medici, dietologi e cuochi, che prenderà l'avvio a Milano all'inizio del nuovo anno, e questo progetto pretende di insegnarci a curarci mangiando bene anche, e quindi questa è una rivoluzione che secondo me arriverà in tutto il mondo. Parte, debutta Golosaria, qui è stato allestito un'immagine di quello che sarà il Papillarium, poi il primo locale sarà a Milano e poi credo in tante altre parti del mondo. In che misura la divulgazione del cibo, anche la sua spettacolarizzazione, perché no? Food entertainment sta diventando anche però un modo per creare cultura condivisa sul cibo. Diciamo che c'è stata una rivoluzione di un'attenzione particolare al campo del cibo, e questo è cresciuto anche con un'esposizione mediatica, è cresciuto con l'idea che tutti un po' ci vogliono mettere le mani in pasta. Allora la ricetta, il cibo rappresentano un mondo perfetto, tutti ci possono riuscire, tutti ci provano, sono attenti. Può esserci un'inflazione di questo mestiere e Milano può arrivare al full come offerta di locali. Però abbiamo tutto il mondo da conquistare con il nostro Made in Italy. And I wouldn't be the man I am today without the woman who agreed to marry me 20 years ago. Let me say this publicly, Michelle, I have never loved you more. I have never been prouder to watch the rest of America fall in love with you too, as our nation's first lady. Focus sui trend. Everyday Icon, icona di tutti i giorni, così è stata definita Michelle Obama, che, dicono gli esperti, ha rivoluzionato la percezione del potere negli Stati Uniti. Il suo segreto: veste cercando di rappresentare se stessa, non il suo ruolo, è stato scritto. Il potere, soprattutto al femminile, si sa, passa anche dall'abbigliamento, dall'acconciatura, dallo stile, tanto che il cosiddetto power dressing diventa oggetto di analisi, commenti, mostre, decaloghi, addirittura iniziative di costume, perché raccontare l'evoluzione dello stile delle donne di potere significa raccontare anche le trasformazioni della società e del suo rapporto con l'immaginario collettivo. Questo è il tema che abbiamo scelto per il focus sui trend di questa settimana insieme a Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Da dove partiamo per la nostra riflessione? Vabbè, guarda, credo che sia obbligatorio quasi partire da una mostra che si è aperta il 29 ottobre al Design Museum di Londra, che si intitola Women, Fashion and Power. Quindi il potere delle donne attraverso la moda. Si tratta di una carrellata di abiti, quindi una mostra di moda abbastanza tradizionale, però nell'impianto non è per niente tradizionale, nel senso che i curatori hanno invitato 26 donne che raccontano il loro punto di vista sulla femminilità attraverso l'abbigliamento, quindi magari scegliendo quei capi di abbigliamento che per loro sono stati fondamentali, per cui hanno definito la loro identità sia umana sia professionale, ma anche scegliendo delle icone, degli abiti che sono stati determinanti per la storia del costume. Si parla di 150 anni comunque di storia dell'abbigliamento, e ci sono abiti che vanno dagli abiti vittoriani fino ad arrivare, che so, al tailleur di Margaret Thatcher. Sono stati invitate a partecipare a questa mostra principesse, Charlene di Monaco, oppure cantanti, c'è ad esempio Skin degli Scancanensi, designer chiaramente inglesi, provocatrici che lavorano sempre sull'identità femminile come Sandra Rhodes, oppure Vivienne Westwood, eccetera eccetera. Però sono state coinvolte anche persone che con il mondo della moda non hanno niente a che fare in maniera diretta, quindi amministratori delegati, politici e così via. Quindi una mostra tra l'altro allestita dalla stessa Zaha Hadid, quindi insomma una delle archistar che meglio rappresentano la determinazione femminile a livello internazionale. Se dovessimo invece scegliere dalle sfilate qualche segnale in questo senso? Allora ci dovremmo spostare da Londra a Parigi, perché potremmo citare tre designer francesi molto molto tradizionali che nelle ultime sfilate, che nelle collezioni che adesso sono nei negozi o quelle che saranno nelle collezioni di primavera, hanno interpretato la donna in una maniera molto chiara. Vediamo molto rapidamente, ad esempio, la sfilata ultima di Chanel, ambientata in una immaginaria Rue Chanel riprodotta nel Grand Palais, rappresentava donne, tutte le donne che si possono incontrare per le strade di Parigi, dalle studentesse fino ad arrivare a magari delle signore, delle dame molto più eleganti, molto più sofisticate. Il finale della sfilata ha sorpreso tutti, perché tutte le modelle sono uscite con dei cartelloni e dei megafoni inscenando una protesta proprio da maggio 68, in realtà non protestavano per i diritti delle donne, ma protestavano virtualmente per il diritto allo stile. Però diciamo ha fatto molto scalpore, ha fatto molto parlare proprio per questo dirompente approccio alla femminilità che non ha niente di tradizionale e di bon ton. Quindi una lettura molto più democratica, trasversale del potere dell'abbigliamento. Esattamente, esattamente, quindi trasversale all'età, trasversale alle classi sociali. Non dimentichiamoci, comunque parliamo di Chanel, però insomma è un approccio sicuramente più aperto. Anche la sfilata di Dior invece ha avuto un approccio completamente diverso, perché è stato una sfilata, quella per l'autunno-inverno 14-15, tutta giocata su colori forti, forme un po' asimmetriche, grande bidimensionalità, quindi è come se fosse stata una purificazione dell'identità femminile, con accenni allo sport ma senza vestire le donne da sportive, nel senso che c'erano gonne, c'erano spalle nude, c'erano scollature molto femminili, però senza essere frufru, senza essere, cioè non era decisamente una donna svenevole e dolce, ma una donna estremamente determinata. Un approccio di questo genere l'ha adottato anche Nicola Ghesquier con Witton, quindi riferendosi più agli anni 60, quindi con delle forme un pochino più calibrate, un po' più giuste, ma con un approccio decisamente artistico, decisamente colorato, pieno di ispirazioni che possono essere più tradizionali, ma sempre per una donna molto molto determinata. E possiamo definire questa una sorta di, per tutti i tre Chanel, Dior e Vuitton, una donna in alta definizione, nel senso che è un'alta considerazione della donna, ma è anche dal punto di vista proprio visivo, estetico, è tutto molto definito, molto chiaro, molto preciso e molto determinato. Bella questa etichetta, mi piace molto. In quanto a modelli, alla loro rappresentazione, sono donne, mi viene da dire, che non fanno più finta di essere uomini. Penso agli anni '80, alla donna in carriera di Mike Nichols, per fare una citazione cinematografica. Beh, basta guardare la forma delle spalle nelle ultime sfilate: o sono nude, quindi sono naturali, oppure sono giuste, magari sono più sartoriali, sono un po' più strutturate, sono un po' più squadrate, ma non sono le spalle da giocatore di rugby che erano molto popolari negli anni 80, insomma, non sono imbottite, non sono forti, non sono maschili, insomma. Un altro elemento molto interessante che si sta vedendo nelle sfilate degli ultimi tempi, chiaramente parliamo dei designer più creativi, più interessanti, è che viene lasciato da parte la nostalgia del vintage, viene lasciata da parte la nostalgia retro, quindi non si va alla ricerca di una femminilità dei tempi andati, quindi una femminilità un po' remissiva, ma si va invece verso una femminilità pura, molto definita, molto chiara, in cui le donne sono estremamente determinate nell'essere donne, senza far finta di essere quello che non sono. C'è qualche segnale di cambiamento anche nelle campagne, nei magazine? Di solito lì, insomma, arriva dopo l'onda lunga. Beh, una cosa abbastanza sorprendente che si può vedere sfogliando qualsiasi rivista di moda è che sono tornati i sorrisi sui visi delle modelle, quindi si sono un po' rilassate, usciamo da un decennio di arrabbiature molto molto severi, molto arrabbiati, di spalle chiuse. Invece adesso vediamo un atteggiamento in generale più fiero, con dei lineamenti più distesi ma nello stesso tempo determinati. Addirittura arriviamo al sorriso divertito, non ironico, ma molto molto chiaro, molto, anche questo qui, in altissima definizione. Una bella rivendicazione, insomma, per l'identità femminile. Paolo, vogliamo aggiungere qualcosa? Siamo in chiusura. Sì, beh, anche un'altra cosa molto interessante, che Women for Expo, sicuramente anche Expo avrà un focus preciso sul mondo femminile, quindi il punto di vista femminile sull'innovazione, partendo dalle ricette, partendo anche dai compiti, se vogliamo, più tradizionali legati al mondo femminile, con uno sguardo internazionale che però vuole andare verso la creatività e la consapevolezza. Grazie a Paolo Ferrarini, alla prossima. A presto, grazie a voi. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, Francesco Morace. Ben ritrovato, Francesco. Grazie, buona domenica a tutti. Qual è il tema di oggi? Oggi parliamo di touch and taste, cioè del tocco e del gusto, che è un passaggio importante per il consumatore perché si allontana dall'idea classica della società dell'immagine. Noi per 30 anni abbiamo continuato a pensare, a teorizzare la centralità, in fondo, televisiva di un mondo in cui tutto passava attraverso le immagini. Oggi questo è vero, ma è molto più vero che anche il gusto, e quindi tutto il mondo alimentare e soprattutto il tatto, acquisiscono un'importanza nuova che si affianca all'immagine. Però dal mondo digitale passa tuttora un'esaltazione, un culto dell'immagine. Pensiamo al fenomeno dei selfie. Questo è sicuramente vero, ma pensiamo anche a come noi usiamo gli smartphone e usiamo tutti i device tecnologici. Passa tutto attraverso il touch. Questa dimensione di tocco, che poi può significare anche il tocco d'artista, il tocco personale, è davvero la nuova cifra anche di generazioni come i giovanissimi, che usano i meccanismi e entrano nel mondo digitale attraverso le dita. Qualcuno l'ha anche chiamato la finger generation, e questo cambia completamente proprio il nostro modo di vivere dal punto di vista non solo del consumo, ma direi anche proprio dei concetti che costruiamo. Parola chiave esperienza, dunque, Francesco, qualcosa di concreto da toccare, da vivere. I brand devono offrire un momento di vita, di esperienza. Assolutamente, esperienza, e al centro dell'esperienza torna il corpo. Quindi, benissimo il mondo digitale, però tutto ciò che è fisico, tutto ciò che è tattile, tutto ciò che modifica anche la nostra esperienza corporea ha un ruolo importante e lo avrà ancora in futuro. Questo significa finalmente accettare un'idea di futuro che non è solo quella di 2001 di Odissea nello spazio, in cui tutto è virtuale ed è lontano da noi, ma un mondo in cui al centro ritroviamo l'uomo di Vitruvio e quindi questa visione dell'equilibrio del corpo. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberto Scaltritti in regia. A domenica prossima alle 15, come sempre un saluto da Maria Luisa Pezzali.